1778. 32. Acquattato nell'ombra, le ossa contratte l'una nell'altra, non più alto di un ragazzino prima di diventare uomo, frugando tra i capelli alla ricerca dei pidocchi, tossendo, scaracchiando. Tutto quel che c'è da fare è mangiare zuppa, se c'è, drenare linfa vitale dalle pentole che non puoi più riempire né difendere. Solo mangiare e defecare, questo ti riesce bene, se non hai bevuto troppo. Tu hai gli ornamenti di un uomo di rango. Il tempo ha lasciato un reticolo di solchi sul volto. Johannes Tecarioga, l'ultimo dei Tecarioga, capi spirituali del clan della tartaruga, fin dal tempo prima del tempo in cui Donna del Cielo piovve dall'alto, la gente nobile che sostiene il mondo sulla schiena. Se il mondo gira fuori dall'asse, la colpa non è tua. L'esilio, anzi, sembra averti riconsegnato barlumi di un'antica dignità. I più vecchi dicono che somigli al Tecarioga prima di te. Come possono saperlo? Nessuno è più vecchio di te, ormai. Solo chi è come una freccia trova la sua via, dicono. Forse può esistere una freccia barcollante, lenta, la punta sconnessa dal legno, eppure capace di percorrere bene l'aria fino a incontrare il suo destino. Il fianco di un cervo, un bersaglio sistemato sul tronco di un albero, il suolo, dopo aver bevuto l'aria finché le ali invisibili ti hanno sostenuto. Si parla di frecce dritte, non di frecce veloci. Si parla di frecce dritte, non di frecce giovani. Accadono cose misteriose nel limbo ovattato dove il tuo migliore amico, quello che si beve a pinte e damigiane, ti ha confinato. Accadono cose ogni giorno. Gli spiriti hanno ali impalpabili che ti sfiorano spesso. Il tuo esilio alcolico è meno sguaiato, meno squallido di quello che molti si aspettavano. Così, quando l'andatura si fa barcollante, ti ritiri dalla vista delle donne, esci dal campo, vaghi nel bosco gridando sottovoce, imprecando tra te e te. Oppure ridendo e ridendo, accennando passi di danza, levando le mani al cielo ed ingraziando per un altro giorno di vita. Ancora un altro giorno, nonostante tutto. Lunga vita a te e al tuo migliore amico. Molti ti considerano ancora saggio e sei benvoluto. Le donne ti sorridono, i ragazzini ti salutano con deferenza. Sei sempre stato un generoso. Tutti i doni passano dalle tue mani. Hai sempre tenuto per te solo quello che serviva. Se Tecarioga fosse ricco, ora la sua gente non sarebbe alla fame. È per questo che ti amano. Tu sei l'immagine dei giorni andati. Quando Donna della Terra sognò per la prima volta, fertili campi nacquero da quel corpo rigoglioso. Una nuvola da occidente prese diverse forme per compiacerla, finché non divenne un giovane uomo. Donna della Terra si innamorò all'istante e desiderò avere l'uomo nuvola dentro di sé. Ora Donna della Terra desidera solo che gli insetti cessino di sciamare, di formare colonne, di combattersi. Le nuvole da occidente hanno la forma di navi, di cannoni, di enormi uccelli funesti. Il mondo rotola fuori dall'asse e tu sei come tutti gli uomini. Insegui i pensieri. Se sei allegro, ridi e ridi. Se sei triste, piangi e maledici il destino. Il vecchio era seduto su una roccia. Guardava la superficie rossastra delle acque, dove il sole sembrava spegnere la sua forza per costringersi a una notte d'esilio. Il volto era immobile. Gli occhi sembravano pezzi di lago spediti a dare luce a un volto provato dalle stagioni. Tornando dalla pesca, Filippo aveva potuto osservarne la figura per più di un'ora, mentre remava verso riva. Non si era mosso di un millimetro. Filippo aveva legato la barca e si era avvicinato, avendo cura di rimanere in vista. «Come stai, vecchio?» Tecarioga girò il capo e lo guardò senza espressione. «Il lago è appena increspato. È molto strano in questa stagione.» Filippo annuì. «Il tempo cambierà con la luna nuova.» Tecarioga tacque. Filippo sentì lo sciabordare dell'acqua sulle rocce, pigro, lento. Poi il vecchio riprese. «Non sono mai stato un buon pescatore, Ronaterionte. Ci sono poche cose che so fare, a dire il vero.» Filippo era stupefatto. Convincere Tecarioga a scambiare più di un monosillabo era difficilissimo. «Sei un buon capo, anche in questi giorni difficili.» Tecarioga alzò il sopracciglio. «Oh, non è difficile. I giorni sono pieni di segni, te ne sei accorto di certo. Dare buoni consigli è facile, basta prendere se stessi come esempi di follia.» Un uccello notturno mandò un richiamo stridulo. Tecarioga tornò a fissare la superficie delle acque. Tu sei un buon guerriero, Ronaterionte. I giovani maschi hanno paura della tua ombra. Per questo non sanno cosa fare di te. Non puoi essere un padre né un fratello. Loro non capiscono le tue vie. Lo so. Tecarioga fece un cenno col capo. Una volta ad Albany ho visto un macellaio olandese. Era molto più bravo e veloce del nostro miglior cacciatore. Non faceva altro tutto il giorno. Scannare, tagliare, disossare. Questo non è il tempo dei guerrieri, Ronaterionte. Non è più il tempo dei Mohawk. Philip sorrise. Era come se la mente del vecchio avesse toccato la sua. La generazione presente poteva disapprovare la scelta del grande diavolo. Non aveva nessuna importanza. La follia pervadeva ogni cosa. Salutò il vecchio. Mise i propri passi verso il forte. Quando si volse all'indietro, la figura si stagliava nel crepuscolo, immobile.